Vabbè, ti saluto, va, mo cambio canale, ma da sette zapping che dicono meno cazzate di te, va. Mi sento zapping, certo. Ciao, Grucia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Questi sono i 99 posse, ragazzi, 99 posse, iniziamo così, 99 posse. L'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista. Il rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Allora, io sono molto vicino a, agli abitanti, alle famiglie, ai vecchi, ai giovani, ai bambini della città di Cremona, i commercianti della città di Cremona, che sono stati sottoposti nella giornata di sabato, caro popolo della Zanzara, che voi siete lontanissimi da queste follie, da queste cose ridicole che avvengono tra gruppi, tra minoranze di pazzi, di estremisti, che hanno semplicemente lo scopo, l'obiettivo di darsele tra di loro. Allora dico, siccome a me non mi interessa chi ha iniziato, i fascisti, i centri sociali, eccetera, eccetera, so solo che una tranquilla e civile città del nord operoso come Cremona, è stata praticamente chiusa sabato, chiusa, perché quattro scalmanati provenienti da tutta Italia volevano assaltare la sede di altri scalmanati che a loro volta, forse giorni fa, hanno attaccato e hanno ferito una persona. Ma è inutile che vi spiego, perché sono cose troppo complicate, che sono lontane dalla vita quotidiana di tutte le persone normali, civili, con i loro limiti, con i loro difetti. Sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista. Vetrine sfasciate, macchine date alle fiamme, feriti, sede dei vigili urbani assaltata, questo è successo. E c'è un gruppo musicale, quello che state ascoltando, che si chiama 99 Posse, abbastanza conosciuto, i quali signori hanno postato sul loro sito Facebook una foto con questi signori dei centri sociali con i caschi, con i bastoni. Onore a chi lotta, più bastoni, meno tastiere. Domenica allo stadio, tutti a sfogare. Chi sono i fascisti secondo voi? Ditemi chi sono i fascisti. I violenti, chi sono? Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle. Rasano la testa, l'anfibio bene, coltello nella tasca. Che dici, Parenzo? Beh, i violenti sono entrambi, Casa Pound e anche quei centri sociali che hanno messo a terra e fuoco con Casa Pound la città. Dopodiché c'è un ragazzo che è in coma all'ospedale. Ma che quindi... c'entra questo? Cosa c'entra questo? Questo è l'unica notizia che non hai dato in più, però. Sì, per certo. Completare il quadro, diciamo. Sì, no? Sì, se certo. Uno vuole fare il quadro informativo completo, dice due gruppi violenti. Quelli sono, come dire, quelli sono i feriti di guerre tra estremisti. Allora io dico una cosa. Diciamo io se fossi nella polizia, a parte che non ha 20 anni, se fossi nella polizia, che cosa farei? Cioè, li radunerei in un posto isolato, isolato, darei a loro armi, bastoni, cioè si ammazzassero tra di loro, perché non ce ne frega niente. No, che stupidaggine, è l'unica cosa da fare, altro che si riunissero da soli in campagna, nei prati, in Padania, si riuniscono tra di, invece di mettere a ferro e fuoco le città come hanno fatto con Cremona, e la gente non può subire cose di questo tipo, no? Cioè, perché io non capisco perché non c'è un arrestato, non c'è una persona arrestata, adesso ci sono i filmati, eccetera eccetera. Allora si riunissero in campagna, li portassero fuori con le camionette in campagna, si ammazzano, spranghe, coltelli, bastoni, pistole, si ammazzano tra di loro, dopo si passa a raccogliere i feriti, arrivederci e grazie, via. Dopodiché su 99 post e caliamo un velo pietoso, direi, pietoso. Ed è sbagliato anche quello che ha deciso il sindaco di vietare il concerto di questi signori 99 post giovedì a Cremona, eh? Sbagliatissimo, perché li si trasforma in vittime. Io non so se siano fomentatori di violenza, può darsi, ma non me ne frega niente. Ha fatto bene in questo caso. Ma ha sbagliato alla grande, ma che istiga la violenza? Hanno fatto un post su Facebook che è semplicemente un delirio e basta. È un delirio, perché i fascisti non esistono, non sono un pericolo e sono fascisti anche loro. I fascisti ovviamente. Ma sono fascisti anche loro. Ma sì, ma chi dice? Esistono i violenti. Questi hanno fatto un post violento e, come ho detto altre volte nei confronti di altri gruppi di destra, se uno incita alla violenza è giusto che non faccia sto cavolo. Ma qua, ma il concerto lo facciano, ma chi se ne frega? Se no si atteggiano a vittime, dai, su, si atteggiano a vittime. Per me è uguale il principio, Va bene, passiamo a cose più serie, dai. Grillo che manda a fare in culo tutti, dai. Oggi abbiamo un bufoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi. Uno che non fa neanche i nomi al suo partito viene da noi e dici: fa i nomi, dici i nomi, e allora tu non accetti. Ma andate a fare in culo, bene! Allora ti spiego. Mentre in Europa si parla di Tsipras, della vittoria di Tsipras in Grecia, in Italia ci si avvicina all'elezione del Presidente della Repubblica. Grillo dice che è assurdo che è tutto già deciso, eccetera eccetera. Però come si può pretendere, caro mio, che ti diano i nomi per poi metterli nel tritacarne del web? È chiaramente una cosa ridicola. E poi, in altre circostanze, qualcuno invocava anche nei nostri confronti la forca. Sentite cosa dice su Napoli il signor Grillo insieme a Carla Ruocco, che è una sua deputata, senatrice, non so cosa. I napoletani, un napoletano che parla di onestà. Vi aspettiamo tutti, è una festa molto importante perché è una luce che si apre nella notte dell'onestà. Questa, quindi, da un napoletano parlare di onestà è meraviglioso, siamo, come sì. Tu sei modificata geneticamente. Saremo una decina, Cioè tu sei modificata geneticamente perché sei una napoletana, si rivolge alla Ruocco che parla di onestà. È incredibile sentire un napoletano che parla di onestà. Io se avessi detto io una frase del genere mi avrebbero rosolato per giorni, mi avrebbero mandato cose di minaccia, eccetera eccetera, come mi arrivano sempre quando oso sfiorare il tema Napoli. Sempre sul palco di Roma bisognava quasi chiamare l'ambulanza in alcuni casi, Parenzo. Senti Dario Fo, per esempio. Senti Dario Fo, scatenato. Ma io veramente... Ma c'è qualcuno che ancora ride per queste cose qui? Senti Dario Fo che cosa dice sulla manina di Renzi. Sì, forse uno dice, no, un grande artista, i famosi... Com'è che li chiami tu, i Gramelot? Com'è che si chiamano, David, scusa? Vabbè, non Gramelot, ma non si sente un cazzo, Parenzo, che vuoi fare? Il Presidente del Consiglio grida: fermi tutti, niente paura, è tutto regolare, ce l'ho messa io, è mia la manina. Ah beh, allora è tutta un'altra cosa. Abbiamo un presidente manina. Evviva la manina! Manina d'Italia, l'Italia si vesta dal giorno di Cipro, si cinta la testa. Dov'è la vittoria? Dov'è la manina? È quella di Silvio che Dio lo creò. Manina, manina, manina, manina, manina, manina, manina, manina, manina. Quante manine! Bah! Ma che divertente però, scusa! Senti, non si sente una mazza, Davide, forse non hai capito bene com'è il quadro della situazione. Non si sente? No, mi dispiace, non si sente. Però mi hai sentito adesso? Sì, scusa. Sì, certo, ti ho sentito io, sì. Ti ho sentito però io. Sapessi i segnali che mi fanno dalla regia. Vabbè, ma non c'è problema, che ce frega tanto. David? Che ci frega, mica facciamo la radio. Ora, non bisognerebbe criticare le madri, mai. Però ho sentito delle cose sulla vicenda Corona domenica dalla D'Urso che sono incredibili. Io non critico mai le madri, anzi, le madri possono tutto. Possono dire qualsiasi cosa le madri, ve lo dico subito. Le madri hanno tutto il diritto, soprattutto quando hanno un figlio in una situazione complicata, hanno tutto il diritto di dire qualsiasi cosa, anche le cose più assurde, per carità. Però questo qua ve lo voglio far ascoltare. La signora Gabriella Corona, che io non ho mai criticato e non criticherò mai, secondo me dovrebbe andare meno in televisione. Questo è un mio consiglio, perché certe cose non si possono sentire. La colpa è dell'Italia e degli esempi cattivi in televisione. Senti, anche, non solo, la colpa è anche dell'Italia, la colpa del fatto che il figlio è in carcere e del cattivo esempio che passa alla televisione. Io non mi sento io sola la responsabile di ciò che è accaduto a mio figlio, della sua patologia, e l'Italia anche che l'ha ridotto così, e tutti gli esempi cattivi che ci sono stati in televisione, dove andava il dottor Cecchi Paolo, tutte quelle trasmissioni diseducative che lo hanno contaminato, esempi, quindi, e l'hanno portato a diventare, tra virgolette, signora, matto. Ma lei ha detto... Ragazzi miei, il cattivo esempio della televisione che ha travisato il suo pensiero. Io non le posso sentire queste cose. Però è la madre. È la madre. È madre pure Alba Parietti. Ciao Alba, come stai? Sai che mi fa piacere che mi convochi in questo momento, ma non per la... Perché? Perché? Perché volevo dire una cosa. Sì, dimmi, come no. Allora, se c'è un modo per far irritare i giudici, secondo me... Brava, sì, è così. Per far sì che si riprenda al massimo della pena, è esattamente quello che stanno facendo. Cioè, brava, se io dovessi dare un consiglio, ma purtroppo per questo, ma non perché stimo i giudici, attenzione, perché ho avuto delle sentenze, sì, francamente, dove sui giudici potrei dire la mia quanto la signora Corona, ma sentenze forse su di che più dici? Perché francamente avevo tutti buoni motivi perché le cose andassero al contrario, quindi con questo non dico che tutta la categoria dei giudici va salvata, però sono esseri umani, sono persone, sì, e sono persone che chiaramente tengono molto alla loro autorità. Allora, se c'è un modo per urticare la sensibilità già molto sensibilizzata dei giudici, è di andare a mettersi... Dunque, innanzitutto io abolirei... Se siete fan di Corona, sì, e volete fargli beccare il massimo della pena, state facendo il vostro lavoro, perché andando davanti alla Corte di Giustizia a fare i fan di Corona, date un altro esempio pessimo, perché non si può essere fan di Corona. Si può essere al limite dispiaciuti... Vabbè, ma i fan non contano. Tu parlavi della televisione, della madre, di quello che hai sentito. Questo vuol dire... Perché questo vuol dire creare ancora dei mostri, vuol dire creare ancora dei miti, vuol dire che oggi, se i giudici si trovano a dover di nuovo giudicare Corona, e questo ancora i fan, nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante il fatto che abbia pagato duramente, forse più del dovuto, proprio per questa immagine strafottente un po' del ma la madre che va dicendo queste cose qua, secondo te rende fa malissimo, fa male, certo. fa malissimo perché la signora è andata una volta, basta, sì, non dovrebbe ma più andare, dai. Perché voglio dire, quello quello che non capisce la D'Urso, fa benissimo il suo lavoro, perché la D'Urso ne ha fatto uno spettacolo ancora una volta, prendendo lei deve fare ascolto, e quello fa, e quello certo. lo sa fare meglio di tutte le altre, perché lei è un tritacarne, no? Sì. Allora la signora Corona in questo momento finisce in questa sorta di tritacarne, dove lui tra l'altro si scusa, per cui secondo te alla D'Urso non frega niente, secondo te alla D'Urso non frega niente di Corona alla fine di tutto. Ma, chi fa la televisione non ha più sentimenti, questo si no, sa, è vero, dire, c'è no? il cinismo più assoluto, il cinismo di chi fa, anche radio, dai, cioè, assolutamente, di me o di tutti gli altri, voglio dire, chi fa la, ma almeno fa... io lo dico, però è diversa la cosa, esatto, allora vabbè, ma la D'Urso, il suo personaggio è anche di non dirlo, di fargli gli sguardi, le cose, è una cinica signora della televisione che porta a casa degli ottimi risultati con quattro, però tu soldi. Dici la madre di Corona dovrebbe andare una volta, scusa, basta. Allora io, se fossi nella madre di Corona come nelle madri di tutti i disgraziati che hanno disgrazie e atteggiamenti, per esempio io sono molto vicino alla famiglia di un ragazzo che ha avuto un grossissimo problema, si sono ben guardati e hanno fatto benissimo. Cioè più vai in televisione più i giudici si accaniscono alla fine. Allora non so, io trovo che purtroppo con la televisione bisogna avere a che fare, bisogna sapersi anche molto difendere. Purtroppo la gente non si rende conto che più si va in televisione, soprattutto, e più si entra e si spettacolarizza, si ridicolizza, tutto diventa una pagliacciata, no? Per cui 14 anni quanti ne ha presi, che sono effettivamente un'esagerazione, poi ridotti, Però non sono esagerazione per il fatto che lui è stato strafottente. Sei ancora a casa, Emo? Oh, la zanzara con... David Parenzo, Alba Parietti in collegamento con noi. Allora, però voglio chiedere subito una cosa diretta su Corona, poi passiamo ad altro, Alba, che è questa. Ma secondo te, alla fine, a te non fa un po' schifo? Non ti repelle un po' questo circo di VIP che difende una persona che non è in galera per tre foto? Non è la parola giusta, però onestamente trovo tutto eccessivo. Allora, da una parte trovo eccessiva la colpa, cioè la come vabbè, questo dire, però, sai, aspetta, fammi finire un concetto. Allora, trovo eccessivo il numero di anni che si deve fare. Vabbè, questo però lo decidono i giudici. Trovo eccessivo l'atteggiamento di Corona precedente per inasprire e provocare i giudici, che è stato quello che ha portato poi alla sua cosa. Trovo eccessivo questo, voglio dire, con tutti i problemi, tra l'altro io i VIP, capisco che vogliono stare dei VIP, cioè fa sempre effetto, ma cazzo, con tutti i casini che ci sono in Italia e tutte le persone ingiustamente accusate, oppure tutti gli sbagli giudiziari che ci sono stati seri, gravi, il problema della giustizia che va affrontato in una maniera molto molto seria, cioè non è l'emblema, non si può far diventare, no, ma perché poi lo mostrizzano tra virgolette, e secondo me gli fanno un danno, no, assolutamente. Perché se io sono un giudice, cioè, sono già incazzato con Corona precedentemente perché mi sta sulle palle questo che c'ha la macchina Belen e va in giro a fare lo stronzo. La volta dopo che tu mi rincari la dose, mi fai trovare i fan davanti al Palazzo di Giustizia e tutto il resto, e ancora no, oppure che mi dici lui, oppure che mi dici in una trasmissione televisiva che sono stati i giudici, che è una vittima dei giudici e della cattiveria dei giudici, siccome loro hanno il coltello alla parte del manico, perché ogni reato ha un tot di anni che ti possono dare, ti possono, che purtroppo loro la legge l'applicano come cazzo in un certo senso gli pare, se uno fatto questo, anche se non hai ammazzato nessuno, alla fine gli fai una tale antipatia. Sì, ma questa storia qui che è in carcere per tre foto anche se non ha ammazzato nessuno è una bufala colossale. Non è vero, si sono accumulati dei reati, si sono accumulate delle pene per diversi reati commessi, che sono una sfilza lunghissima. Ma è anche simpatico. Trovo, vabbè, ma quello che c'entra, ma la simpatia pena, però trovo che quello che stanno facendo tutti gli sta facendo un danno, perché se vogliono convincerci che, per cui tu non manifesteresti mai a favore di Corona? No, se devo manifestare manifesto per Corona. E la grazia, grazia è sbagliata. Che si sono fatti un culo così nella vita, gli hanno tolto il lavoro, vado a manifestare con gli operai dell'Ilva, scusate, non voglio fare la populista. E la grazia è sbagliata, chiedere la grazia, no, chiedere ovviamente, no, si può. Chiedere la grazia per altre cose, voglio dire, sinceramente, ma non perché Corona, non capisco che ci sia un'esagerazione nella cosa. Ci però, può anche essere, in teoria tu dici, però non però, è l'esempio sbagliato per cui battere. Fate, e se volete fargli diminuire la pena, fate sì che lui abbia una buona condotta, che si sappia e non ci siano più sana ad aspettarlo davanti. Ma lui dice che sta male, che ha una... tutti quelli in carcere, io non conosco uno che sta in carcere che sta bene, voglio dire, ma neanche quelli che lavorano nelle carceri stanno bene, perché io credo che lavorare e fare il lavoro lavorare nelle carceri sia uno dei lavori più duri in assoluto, insieme a quello dei detenuti, con quello che si sente nelle carceri italiane. Andare nella carcere italiana, allora il perito di parte italiane. Scusa, sì, Alba, il perito di parte scrive, veramente è incredibile quello che ho letto nel weekend. In cella non può gratificare se stesso con gli eccessi, la grandiosità e l'assenza di vincoli e controlli. Da qui disturbi d'ansia, attacchi di panico e depressione. Se ti carcerano a te, Crociani, che succede? Ma io, ma come te, ma andiamo a manicomio tutte e due, ma è normale. Aspetta, per cui dice io cambierei perito. Se anch'io cambierei perito, perché è anche irritante. No, ma aspetta, questo perito dice dirti. L'unica strada dunque è scollegare Corona dal circuito carcerario. Essendoci disturbi d'ansia, attacchi di panico e depressione, perché in cella non può gratificare se stesso. Ecco, ragazzi, no, allora vorrei che il perito non fosse, io ditemi il nome del perito, perché dovessi mai farmi fare una perizia, non userò questo perito. Si chiama Petto Rossi. E non farò questo tipo di campagna, diciamo, che secondo me, ripeto, avendo in simpatia, tra l'altro, fa dei danni a Corona stesso. Corona, gli fa un danno bestiale. Senti, perché... cara Alba, io sono sicura che tu sei innamorata del nuovo leader della sinistra italiana e anche europea, che si chiama Tsipras. Non è italiana, è solamente greca. Sì, però è diventato subito il leader, come al solito, della sinistra italiana. Perché abbiamo uno spazio enorme, perché capisci, non no, abbiamo... No, ma fisicamente ti piace? Della sinistra, perché Renzi giustamente è un leader, ma non della sinistra. E certo, noi non vediamo l'ora di trovarcene uno bello, bruno, con questa faccia così da maschio, così quello che prende in mano la situazione. Noi l'ultimo che abbiamo avuto è stato Berlinguer, hai capito? Cioè l'ultimo, proprio l'ultimo che io mi ricordo. Vabbè, non era così maschio però, zio Berlinguer. Era un bellissimo uomo, con grande carisma, e soprattutto era un politico. Vuoi mettere, ma questo Tsipras se ti piace o no fisicamente? Sì, sì, bellissimo. Mi piace moltissimo. Mi ricorda un po' quel, quell'allenatore tedesco. E chi è l'allenatore tedesco? Quello su cui si chiacchiera molto, però è un gran figo. Ah, quello, l'allenatore tedesco campione del mondo, che è? Quello che si dice che... No, sì. Vabbè, ma quello... Sì. Sì, comunque guarda che il physique di Roll conta. Noi, come presenti, no? Conta, come certo che noi conta. Noi non abbiamo un politico che abbia physique di Roll, niente. Beh, Renzi non è male, dai, su. Cioè... Beh, piace molto a Durso. Piace molto Madurso fisicamente, ho visto, eccetera. Vabbè, ma fisicamente non è, ho capito, non è il tuo genere, però non si può dire rispetto ad altri politici italiani, scusami. Vabbè, grazie, poco se mi giudico e molto se mi paragono, grazie. Sì, lo so, voglio dire, ma adesso diciamo che... Comunque sto Tsipras è di gran lunga, cioè vince anche perché è bello, diciamo. Allora, da che mondo è mondo? Basta vedere i casi legati a Kennedy, eccetera, eccetera, che poi si è scoperto che tanto proprio Lindo non era. Però come ti poni questa aria da giustiziere, quello che arriva e finalmente riporta il popolo ai suoi diritti e fa una battaglia sociale e civile, in per di più è bello, cioè Guevara insegna, i brutti non piacciono a nessuno. I said the Joker is a wanted man. It makes a way across the land. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Se non capite il mio pensiero, io... Certo, a leggere alcune notizie questa mattina non si può che essere d'accordo con quello che diceva prima la nostra amica, la voce che avete sentito prima. Non so se l'hai riconosciuta, Davide, la voce che hai sentito prima. Non so se era la Flavia Vento. Esatto, brava. Ah, pensavo fosse la Rivelli, stavo per dire. No, siamo a Vento, che diceva siamo alla frutta. Vabbè, ma si può dire di tutto. Ma ho letto stamattina una notizia incredibile. Voi vi ricordate il caso clamoroso nella metropolitana di Roma, in cui un ragazzo, un giovane, che si chiama Alessio Burtone, colpì con un pugno in faccia una romena, una signora romena, e dopo pochi giorni questa qua è morta. È morta. Questo signore qua, dopo quattro anni, è fuori dal carcere. È fuori dal carcere, è stato condannato di omicidio, per omicidio per intenzionale, quello che è. Dopo quattro anni è fuori dal carcere. Quattro anni! Una roba incredibile, incredibile. Vi piace un mondo così? All the people that you see. Intanto i giudici hanno disposto la perizia psichiatrica su Corona, la notizia è arrivata pochi istanti fa. Dunque si esamineranno le cartelle cliniche, ci sarà una perizia psichiatrica su Corona, il quale evidentemente potrà essere fatto passare per matto, non lo so, con dei problemi psichici. Normale amministrazione quando si chiede la scarcerazione per motivi di salute. Comunque il tribunale dispone la perizia psichiatrica, la perizia psichiatrica. Sì, normale amministrazione. Beh, l'altro giorno, ieri, anzi, l'amico Fulvio Abate così attaccava Corona sempre dalla D'Urso, in maniera forse un po' esagerata, eh? Cioè lui lo attacca come simbolo del male, come simbolo del male, ma non c'entra niente in questo caso, caro Abate, eh? Addirittura dice calci in culo a Corona, sentite Abate, Corona, io ne sono altrettanto convinto, meriterebbe di essere preso a calci nel culo per la sua condotta. Detto questo, un giusto che ci sia, diciamo, clemenza rispetto al suo stato di salute, ma non facciamone un eroe, perché questo è scandaloso nei confronti di altre figure che se anonime. Quest'ultima parte ha ragione. Poi parla però di orrendo mondo culturale di Corona, che non c'entra assolutamente nulla. Cioè, il mondo di Corona è il mondo di Corona e chi se ne frega, non deve, cioè non è che c'entra qualcosa sulla sua condanna, eccetera, È una questione culturale. Il mondo culturale cui Corona ci rimanda a me personalmente fa orrore. Ma non posso dirlo? Ecco, ma cosa c'entra? Continuate a dire che il nostro c'entra? Immoralismo. Ma cosa c'entra? Oh, c'è un sindaco a Castel Volturno, provincia credo di Napoli, o sbaglio, provincia di Napoli, il quale si è messo in testa di sconfiggere la prostituzione, cosa che nessuno è riuscito mai a sconfiggere e che nessuno per fortuna sconfiggerà mai, dico io, aggiungo per fortuna, perché altrimenti è come combattere, che ne so, cioè la violenza. Beh, purtroppo dipende quale. Purtroppo esiste prostituzione, sì, vabbè, ma siamo tutti d'accordo che, ripeti per l'ennesima volta, lo schiavismo, la riduzione in schiavitù, la tratta delle prostitute, ma quello chi non è d'accordo? La prostituzione però è ineliminabile. Castelvolturno, provincia di Caserta. Allora, che succede? Il signor Dimitri Russo, sindaco di Castel Volturno, cosa fa? Ha fatto travestire due sue consigliere comunali, un assessore, non mi ricordo nemmeno, da prostitute, e Dio sa perché queste qua hanno fatto una mossa di questo tipo, per adescare i clienti e farli poi multare dai vigili urbani di Castel Volturno. Questo signore, che si chiama Dimitri Russo, senti, cioè anche lui si avvicinava a un certo punto con la fascia tricolore, si avvicinava alle macchine dei clienti delle prostitute come se fossero, no, dei mostri, come se fossero dei pervertiti che si avvicinano alle prostitute, e senti cosa dice: ci vogliono, una volta che ha finito deve utilizzare i fazzoletti, e poi senti. Quando va prostitute, ve lo dico che il profilattico va nel residuo, sempre, perfetto. I fazzolettini usati invece vanno nell'umido, se sono umidi, dove se avete sporcato il pisellino. Invece i fazzolettini non usati, bianco, vanno nella carta, va bene? Se lei ha sporcato il pisellino, i fazzolettini poi li mette nell'umido, dice. Beh, il sindaco. Forte, sì, però. Ma sì, d'accordo, forte nel senso forte. Che si è parlato di lui in questo senso, ma i risultati di questa roba qui quali sono? Cioè i risultati quali sono? Cioè, beh, purtroppo, beh, a Castel Volturno, come in tanti paesi, ci sono tantissime prostitute. Il fenomeno non è eliminabile per mano del sindaco, né attraverso le multe ai clienti che poi sono state comminate e fatte, anzi, dice il sindaco, hanno preferito, no, invece di farsi arrivare le multe a casa dove c'erano le mogli pronte lì, hanno preferito conciliare subito questi signori. Ma non ha senso tutto questo, non ha senso, se no la pubblicità al sindaco stesso, ma non ha senso, se no, perché non si risolve nulla, zero, nulla. Però magari lo chiameremo più tardi. Titoli del TG3. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Dopo il trionfo alle urne, Tsipras stringe l'accordo con la destra anti-euro per raggiungere la maggioranza dei seggi. Già in mattinata il giuramento laico come premier. È il debito per Tsipras il primo ostacolo da affrontare. Obiettivo: allungare le scadenze dei pagamenti. Poi le promesse di aiuto alle fasce più deboli della popolazione. Bruxelles: abbiamo già concesso molto alla Grecia, pronti a discutere con il nuovo governo, ma i patti vanno rispettati. Bene le borse, in flessione solo Atene. Renzi incontra i parlamentari del PD in vista dello scrutinio per il Colle. Scheda bianca alle prime tre votazioni, dice: poi faremo un solo nome, sabato lo eleggiamo. Il Movimento 5 Stelle non andrà alle consultazioni con il PD. Quello di Renzi è soltanto un bluff. Sel disponibile al dialogo, ma no a un candidato del Nazareno. Per Schettino, il PM chiede la condanna a 26 anni di carcere e l'arresto per pericolo di fuga. Il magistrato: fu un incauto idiota, Dio lo perdoni, noi no. Lui replica: non scappo. E dopo 4 mesi di durissimi scontri, quasi del tutto liberata dai curdi la città di Kobani, assediata dall'ISIS, che rilancia intanto la sua minaccia all'Occidente: colpiremo ovunque. Davide, siamo sempre con Alba Parietti in collegamento con noi. Cara Alba, hai già detto che il tuo inquilino preferito al Quirinale è... Ne ho detti due. Don Ciotti e la Gabbanelli, però vabbè, faccio un nome più realistico. Ma perché meglio di Don Ciotti e la Gabbanelli che conosci, scusa. Ma no, vabbè, ma non si possono fare questi qua. No, perché effettivamente sarebbero dei garanti troppo seri. Ma che garanti, cioè, voglio dire, gente troppo seria, no? Ma non si può fare. Ma non si possono fare. Non piacerebbe. Ma perché è un politico, no? Non ho capito. Perché i politici che t'hanno fatto? C'hanno la lebbra, che fa? Un po', sì. C'hanno la lebbra. Sì. Cioè, no, più che altro io voglio delle persone che mi diano la sensazione di essere veramente super partes, che abbiano veramente a cuore il destino degli italiani, dei cittadini, delle fasce più deboli. Vabbè, ma ho capito, ma il Presidente della Repubblica... Non mi sembra che i politici rivestano questo ruolo e di conseguenza mi piacerebbe qualcuno che non verrà mai eletto. Vabbè, però facciamo i nomi di qualche politico. Facciamo, capito? L'utopia è questa qua, vabbè, ma tanto è un'utopia irrealizzabile. Tu dici, al di là del fatto che sei una povera scema che ancora crede che ci possa essere qualcuno... No, che fa gli interessi dei cittadini. Adesso, tolto questo, cara Parietti, a chi vorresti dare il palmarès? Esatto, della... togliamo Don Ciotti e la Gabbanelli, che sono così nella tua mente. No, non sono nella mia mente. Per dire, io sono giusta, buona. Per bene, che vorrebbero questo paese, cioè, avrebbero ma voglia. Non sono in grado di fare i presidenti della Repubblica. Scusa. Bisogna stare dalle scartoffie, al Quirinale, i corazzieri, la Costituzione. Ma no, guarda, scusa, ti dai, smentisco su. Immediatamente. Ma pensavo dicessi allora, Veltroni, Alba, scusa. Le scartoffie non hanno nulla a che vedere col Presidente della Repubblica. Anche, dai. Presidente della Repubblica deve essere garante di giustizia, deve conoscere la legge, deve conoscere sostanzialmente. Vabbè, ho capito, Don Ciotti non sa niente della Costituzione, sociali, e mi sembra che, scusa, ma tu perché adesso io ti rigiro la domanda, perché tu dici di no a uno come Don Ciotti? Ma non è che dico di no, perché a occuparsi di questioni ma sociali. Ma per carità, ma Don Ciotti è una persona degnissima, ma non, ma, non è, ma è un mestiere è diverso. Cioè, ma è un mestiere allora, diverso. Per me il Presidente della Repubblica deve essere un eroe. Ma continuasse a fare l'eroe, non può essere Presidente della Repubblica. Dai, su. Ah, perché il Presidente della Repubblica, scusami, ma Pertini perché era considerato? Vabbè, ma Pertini era un politico, è un politico tutto tondo. Eh? È un politico a tutto tondo Pertini, era un politico, ha fatto una carriera politica, non era solamente uno che ha fatto la resistenza. Ma dai, su. Ma perché secondo te, scusami, voglio dire, fare, stare in trincea come è stato Don Ciotti tutte le volte, Vito non è fare politica. Ma, non, ma guarda, certo. Mille volte, fammi finire, è mille volte più fare politica quella che fa Don Ciotti che quella che fa, perché Don Ciotti non cerca di salvarsi. Vabbè, ma togliamo Don Ciotti, è uno stipendio. Vabbè, ma togliamo è Don Ciotti. Uno che pensa, vabbè. Per me la politica vuol dire bene, occuparsi del destino delle persone. Togliamo Don Ciotti dalla Gabbanelli. Ma perché non dici Veltroni? Se così scomodi se li metterebbero mai, Perché non dici Veltroni? Ma che me ne frega, scusami, detto tra di noi, che me ne frega di dire Veltroni, cioè Veltroni, come dire Veltroni è un signore che conosco, un tanto un amico, certo mi farebbe più piacere lui perché lo conosco meglio di quanto conosca degli altri, ma come un buon conoscente, come se eleggono il mio vicino di casa, ma non è che ho dei particolari interessi, ma no, interessi al di là della mia stupida ideologia e della mia stupida fantasia di pensare che ci sia qualcuno che fa e garantisce per la gente, per le fasce più per deboli. Ma il Presidente non è che deve pensare alle fasce più deboli. Queste fasce più deboli si incazzino, che devono fare? La rivolta? Ma magari, guarda, questo la è rivolta. Un popolo, sai che cos'è? Gli italiani sono un popolo purtroppo di pecore, l'ho già detto. Ma dai, la rivolta armata, dai, ma magari. La rivolta armata, perché tu mi metti in bocca? E che ne so, cose? La rivolta, ha detto. a Crociani, perché tu mi fai sempre più scema di quello che la rivolta, hai detto. Allora, la rivolta che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente deve cominciare a prendere atto, e cominciare a capire qualcosa di politica. Vuol dire che la gente non si deve più fare impapocchiare e fottere. Vabbè, vuol dire che la gente deve dimostrare pacificamente che è il modo migliore dimostrare? Per far valere gli italiani non sono un popolo di rivoluzionari, questo lo sappiamo. Senti una cosa, ti voglio chiedere un'ultima cosa, ma ti stupisce il fatto che il Rocco Siffredi, un pornostar, sia l'Isola dei Famosi? Certo che tu salti proprio di palestra. Io sì, tu sempre. Hai una malattia. Sempre. Cioè, una malattia. No, perché? Non ti ho chiesto di sesso fino adesso. Che tra l'altro significa parlare di tutto. Guarda, Rocco Siffredi a me è molto simpatico. È un businessman, cosa che dovresti fare anche tu, Crociani. Assolutamente. Delle sue parti intime. No, ma che ne sai lui tu? Le ha messe a reddito. Ma che ne sai che io dovrei fare? Tu non hai ancora fatto. Ma perché dovrei fare? Ma al momento non si è visto. Ma perché dovrei mettere a reddito le mie parti intime? Scusa, ma perché è arrivato il momento, fallo. Dice, è arrivato il momento, o davanti o dietro, fai come hanno fatto tutti, cioè voglio dire, nel senso metaforico, nel senso, prima parlavi di prostituzione, ma hanno messo tutti, quasi tutti, le loro parti intime in senso metaforico a disposizione. Fallo anche, dice, perché non lo devo fare pure io? Ma perché non lo devi fare pure tu? Sì, questo dai, è vero, in fondo, hai delle misure interessanti da venderci, come Rocco Siffredi, e che ne so, all'Isola dei Famosi, perché cosa pensi che l'abbiano preso? Ah, l'hanno preso solo per quello, dice. Perché pensano, sperano che ci sia lo scandalo, cioè che lo tiri fuori a un certo punto, sì. Ma no, vedi che tu riesci tu a imbarbarire qualsiasi sei tu che hai parlato di misure, non io, scusa, ma hai raffinato intellettuale, hai parlato tu di misure, non io. Guarda che secondo me ti fa le scarpe. Vuoi vedere che l'anno prossimo al posto tuo chi? A Radio 24 prendono quello che c'ha il microfono incorporato? Chi è il microfono incorporato? È un microfono, vedi, a me basta dirle le cose, Si freddi, cadere, non le voglio dire, lui è un uomo che ha mille risorse, un businessman, uno che ha fatto del porno, lui non tradisce la moglie. Questa si può discutere. Non è come te che perdi tempo in giro per la tua vanità. Lui ha una moglie, dei figli. Abbiamo parlato dell'asilo, delle scuole, di come i suoi figli affrontano. Ma scusa, secondo te l'hanno preso per lo scandalo? Perché vogliono lo scandalo? No, Rocco Siffredi l'hanno preso perché sperano che parli di politica. Fermi, ciao Alba, ciao. Mi lasci già, perché vedi, sei come tutti. Amore, io ti vorrei tutti i giorni. Ma io tutti i giorni vorrei sottomessa, ti voglio come Adinolfi, sottomessa come Adinolfi. Guarda, io sottometto a te Crociani, poi dall'altro Crociani, ciao. Ti faccio sottomettimi sì, con i piedi, sottomettimi, picchiami. Ciao. Ma mi sa che a te è già successo qualcosa del genere, ma non abbastanza, non ti hanno picchiato abbastanza da bambino, lo sento. È tutto finito, è tutto degradato, è tutto. L'anno prossimo al posto tuo a Radio 24 prendono quello che c'ha il microfono incorporato, ma vaffanculo, Crociani. Oppure l'Alba con le parolacce non scherza quando si scatena. Si sente libera, si vede. Allora, Stefano libera. Verona, vai Stefano. Sì, buonasera. Vai, vai. Allora, per Cremona non è possibile che 100 esagitati mettono sotto assedio. Anche 200, diciamo, non 100, diciamo anche 200. 100. Sì. Qui hanno sbagliato il sindaco e questore a non prevedere tutto come andava a finire, perché oltretutto c'erano due forze antagoniste, destra e sinistra, perciò lì ragazzi era già scritto che sarebbe andata così, per cui non riesco a capire come non ci sia un'opera preventiva per bloccare questi esagitati. Perfetto. Che vengono da tutta Italia, primo, e secondo, è insopportabile l'idea che si debba chiudere una città perché si sa come finisce, e con le banche distrutte, con qualche auto in fiamme, eccetera eccetera, e poi che cosa dobbiamo sentire da parte dei responsabili delle forze dell'ordine? Non ci sono feriti, ma chi se ne frega, non è quello il punto. No, è certo che non ci sono feriti, tutto chiuso. Qui guarda, era da denunciare sia il sindaco sia il questore per l'inefficienza. Ma il sindaco non lo so, perché non è responsabile dell'ordine pubblico, per cui o si negava quella manifestazione. Ma certo che era una negata, ragazzi, ma non è tutto autorizzato in Italia. Non può essere tutto autorizzato. Meno male che lo dici anche tu, che no, non è tutto autorizzato. No, ma certo, non può essere tutto autorizzato. Ma che vuol dire? Ma è normale che io lo dica che non può essere tutto autorizzato? No, quando ci sono libertà di espressione, quando... qualunque cosa, certo, chi incita alla violenza va sempre bene. No, ma bene. Sono due cose diverse. Qui c'è una No, ma che c'entra la mia libertà di manifestazione, la libertà di espressione? Sono due cose diverse. Mi sembra che la polizia abbia fatto il massimo di quel che poteva fare. Ma non questa cosa qui, insomma, il massimo, insomma, il massimo. Beh, mi sembra di sì. Purtroppo c'erano c'è quelli con i caschi e con i bastoni che sono in questo momento. Oh, ma questo quello è un altro discorso che riguarda. Ma non è un altro, è legato. Va bene, d'accordo, questo, va bene, poi. Stefano, vai, vai avanti, è legato se a questo, sì. Essere cinici per va forza, bene, d'accordo, è legato, diciamo. Sì, certo, è tutto legato, beh. Stefano. Hanno lanciato dei lacrimoni. Cioè, in Italia ci sono i custodi dell'ordine, non sono i 99 posse, i centri sociali, bene, eccetera. Certo. Se è successo qualcosa a un tizio e noi siamo molto dispiaciuti che è stato pestato, ci sono le forze dell'ordine che fanno le indagini e speriamo che i responsabili siano presi al più presto e sbattuti in galera, per quanto devono essere sbattuti in galera, punto. Da quello che succede dopo, cioè la, come dire, la giustizia personale, le persone che cercano, ma non è che vogliono farsi giustizia, vogliono sfogare la loro sete di violenza. Non so, nulla è giustificabile in nome di uno che sta in coma in ospedale. Non c'è nulla di giustificabile, chiaro, Stefano? Poi, beh, certo. E allora polizia... questo è il punto. Non è così. Non è così, bene, non è così, Stefano. Non è così. Dai, la polizia ha lanciato subito gli acrimonici. Perciò sono andati a fare più casino perché gli hanno anche messo in pericolo tutto dell'ordine pubblico. Manifestavano. Ma possiamo dire che è una vergogna il fatto che una città del nord pacifica come Cremona sia stata lasciata dalle forze dell'ordine in balia di 200 scalmanati o no? È possibile che non c'è un'opera di prevenzione? Uno che interviene prima? Non c'è un arrestato? Spero che ci siano nei prossimi giorni o no? È giusto che i commercianti, la gente normale di Cremona siano incazzati anche con le forze dell'ordine e con i responsabili, non con i poliziotti che stanno per strada, ma con i responsabili che non hanno assicurato il fatto che non ci siano 400 pazzi che scorrazzano con i bastoni a incendiare e a fare violenze? Sì o no? È possibile che ci sia gente incazzata o no? Come questo signore che ci chiama da Verona, Stefano, o no? Perfetto, bravo. E questo è il punto, molto semplice, cioè non c'è altro. Va bene, allora andava vietata la manifestazione. Ma basta, è normale fine. Che va vietata una cosa che è violenta in partenza, perché è chiaro che sarebbe andata a finire così. O comunque se non la vieti e blocchi le persone, cioè fai un'opera di prevenzione, altrimenti a che servono le forze dell'ordine? L'opera di prevenzione, certo, allora mi viene il sospetto. Tutto no, mi viene il sospetto, mi viene il sospetto che forse qualcuno non interviene apposta, non lo so, devo fare il dietrologo pure io, perché non è possibile che una manifestazione organizzata. Ma sono situazioni delicatissime, alle volte sfuggono di mano, come nel caso, come nel caso di Cremona. Quante volte è successo? Sfuggono di mano, Roma, ma non mi sembra che fa. Sfuggono di mano, è tutto previsto. È evidente che se questi qua portano tutto i previsto. Dai, su, no? Non diciamo stupidaggini. Ma il questore di Cremona, allora. Ma non è questione di questore di Cremona. Chiunque conosce queste cose sa benissimo che una manifestazione organizzata per la morte, per il fatto che uno è in coma, dicono loro per colpa di Casa Pound, vedremo naturalmente quello che è successo. Vabbè, non si sa, ma non è che già si sa. Cioè, alcuni dicono così, gli altri dicono di no. Per cui bisogna vedere poi chi è stato, no? Punto. È evidente che va a finire così una manifestazione del genere, ma mi pare assolutamente scontato. Cioè, non riesco a capire come non si possa prevedere che ci sarà un giorno di violenza a Cremona, e questo va evitato. Allora, abbiamo con noi Matteo Salvini, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Ciao Matteo. Senti, voglio sapere da te una cosa, ma il sindaco di Cremona, che non credo che sia della Lega, ma credo che sia del PD peraltro, no? Sì. Ha vietato il concerto dei 99 posse giovedì. No. I signori 99 posse, che tra l'altro ne hanno anche per te, e dicono che se oggi hanno scritto una roba, oltre ad aver detto quella frase assurda su Facebook ieri, cioè i bastoni, aspetta che la ritrovo. Più bastoni, meno tastiere. Sì, esatto, più bastoni, meno tastiere, onore a chi lotta. Hanno anche scritto una roba. Forse non si riferivano a bastoni della Lega, però. No, no, quello è Max Bastoni, che non c'entra niente. Ecco. Il neofascismo, ulteriormente sdoganato come alleato da Salvini e dalla destra istituzionale, è oggi un'emergenza democratica in questo paese. Facciamo qualcosa, indigniamoci per questo. Questo hanno scritto. Hai detto che dicono che hai sdoganato il neofascismo, che loro vogliono combattere con i bastoni, con la violenza, eccetera, eccetera. Mi sembra un ragionamento che non fa una grinza. Vogliono combattere a bastonate quella che loro ritengono un'emergenza nazionale. Purtroppo certa sinistra ritiene di essere sempre moralmente e purtroppo anche fisicamente superiore. Bene ha fatto il sindaco. Ha fatto bene secondo te? Ha fatto non bene, certo. Di più. Cioè, se un gruppo che dovrebbe suonare teoricamente mette sulla sua homepage della gente che va in giro con, certo, i caschi e i bastoni, ma no, perché vedi Salvini, Cruciani invece farebbe suonare anche questi qui. Io dico io dico una cosa. Hai detto prima che dovrebbero suonare. Sì, certo, ma lo mantengo. Ma infatti... un corno istigano la violenza, siano essi di destra o di sinistra, non devono suonare. No, attenzione, io ho detto una cosa, siccome per me vale per tutti. No, allora io mi fa orrore, come ho più volte detto, ed è evidente da quello che penso, eccetera, quello che scrivono, quello che hanno detto, eccetera, ma eccetera. Allora, se uno posta una roba come questa, aspetta, che è un incitamento a rompere le balle alla violenza, ma perché li devi far suonare? Perché... faremo a meno dei 99 poste, cazzo. No, ma il problema non è che per me non è che siccome sono di sinistra, poi, no, ma non hai capito, è quella roba lì, ma non hai capito quello che dico. Io dico che si rischia in questo modo, vietando un concerto, si rischia di far diventare questi signori, che sono dei poveri dementi, delle vittime. Ma non è che se uno incita al fascismo e dice no, però io vado oltre, dovrebbe essere vietata qualsiasi manifestazione a Cremona che prenda spunto da questa roba qui. Questo ma è. Infatti il sindaco ha sbagliato ad autorizzare l'altra di manifestazione, quando si sapeva che ci sarebbero arrivati 2000 esagitati a far casino. Ma fosse per me, fossi io ministro dell'interno, capo della polizia, se c'è una manifestazione qualsiasi, ma organizzata da chiunque, con un tizio col casco integrale, il volto coperto e il bastone in mano, quella manifestazione non comincia e quel tizio lo porto in caserma. Sì, diciamo che spesso i caschi spuntano dopo un'oretta dal corteo, non è che spuntano subito. Dopo un'oretta mi porto in caserma, saranno 10, saranno 50, saranno 100, anche perché magari in piazza c'era anche della gente per bene. Quindi non... sono in linea di principio d'accordo con Cruciani, nel senso che io sono perché ognuno sia libero di esternare le sue idee, anche le più deliranti possibili. Però la violenza in un momento come questo no. Ma scusami, abbiamo appena concordato che quel posto scritto che in un momento come questo, dei 99 posse incita all'odio. Allora varrà per tutti, no? Cioè, certo, varrà per infatti ha detto in un momento delicato come questo, anche perché poi magari faranno pure musicalmente schifo, non lo so, però magari attirano al concerto gente che va lì solo per far casino. Magari uscendo dal concerto spacca due macchine, due vetrine. Sì, diciamo che ormai non è che c'è bisogno di un ulteriore concerto dei 99 posse in questo caso, anzi probabilmente il fatto che venga vietato l'arrivo dei 99 posse, che lo hanno peraltro confermato a Cremona, con in più il fatto che il sindaco ha vietato il concerto, secondo me alimenta solo casino. Invece se uno lascia questi, vabbè, sfogatevi, dite quello che vi pare, fate sto concerto, basta. Ma è così, però guarda che la libertà ha dei limiti, che ma quello lo dice a me, lo dici, ma io lo dico a me, certo che lo dico a te, le proibirei certe manifestazioni, io le proibirei in partenza, ma le manifestazioni dopo quello che è successo con un tizio in coma e le responsabilità verranno accertate, quelli dicono Casa Pound dice che non sono stati loro, cioè io le proibirei, perché la violenza è insita in certe manifestazioni. Ma scusa, ma la gente è normale, ma vi rendete conto che sono minoranze, la gente normale, ecco, ti posso dire però che cosa mi ha infastidito oggi, che a fronte di questo che condivido c'è stato un consigliere comunale di Roma, del SEL di Vendola, che ha chiesto invece alle autorità di vietare la manifestazione della Lega prevista per il 28 febbraio a Roma, perché noi istigheremmo, non ho capito che cosa. Cioè, un conto è bloccare. Ma quello è un partito politico normale, ma che c'entra questo? Dai, cioè... sai, vallo a chiedere a questo tizio del SEL di Roma che noi non dovremmo manifestare a Roma, perché non ho capito per quale motivo. Cioè, ma non si capisce qual è il legame tra le cose. Cioè, da una parte c'è un partito politico riconosciuto, che eccetera, eccetera, ma questo vale per tutti, e dall'altra parte una manifestazione. Vabbè, comunque, sono due cose diverse. Senti, allora, la questione Quirinale, caro Matteo, però tu non la puoi scansare dicendo semplicemente basta. Vabbè, ho capito, lo so che vabbè, d'accordo, basta. Fortuna che sabato è finita, perché Babbo Renzi ha deciso che è finita, così almeno parliamo di altro. Guarda, ormai mi prendono per sfinimento, voto Casini, voto Prodi, voto Veltroni, voto Parenzo, voto chiunque si presenti, basta che sabato sia finita. No, sabato sarà finita, non ho l'età, però. Sarà finita. Grazie. Però tu non ti puoi limitare a dire Feltri, Ostellino, queste cose qui, che per carità, per me potrebbero essere anche Papa, non Presidente della Repubblica. Guarda che Feltri e Ostellino ci farebbero fare un figurone della Madonna. Adesso, a parte tutto, non saranno mai Presidente della Repubblica, perché non sono di sinistra, perché in Italia se non sei di sinistra certi ruoli non li ricopri, però è vero che non saranno mai Presidente della Repubblica, ma il nostro nome segreto, la nostra arma segreta la tireremo fuori domani. Chi è? Ci penseremo stanotte. Ma veramente? Non lo sai. Però scusami, dimmi la cosa, nelle prime tre votazioni, siccome pare che poi chissà che succede nelle prossime ore, nelle prime tre votazioni il PD oggi ha detto che c'è la scheda bianca e poi un nome solo alla quarta. Ma la Lega, chi voterà le prime tre votazioni? Tu darai un'indicazione per un nome o no? Sì. Sì, daremo un'indicazione per dare un segnale all'Italia che cioè, tipo? Dentro è... Ma non te lo posso dire per rispetto nei confronti dei miei deputati e dei miei senatori. La Zanzara è amabile, però ne parlo prima con loro. Però ci sarà un nome della Lega? Uomo o donna? Ma ma non vado per queste distinzioni. Non vabbè, so, no, non però lo saprai. Ci sono due o tre ipotesi. Non decido solo io, a differenza di Renzi, che alla fine decide lui. Noi siamo abituati a deciderlo in gruppo, ma credetemi veramente, non è frase fatta quando vi dico che non ci stiamo perdendo. È un nome di bandiera, però. È un nome di bandiera. Sì, sì, è certo. E vuoi fare Presidente della Repubblica uno che non sia di sinistra in Italia? È impossibile. No, beh, c'è l'articolo 38 della Costituzione che lo impedisce. Vabbè, ci sono anche i numeri, però. Bisogna dire che ci sono anche i numeri di un Parlamento abusivo. Vabbè, quello. Un Parlamento abusivo, sta eleggendo un Presidente della Repubblica che sarà abusivo. Senti, però, io voglio capire una cosa. Tu hai detto se c'è l'accordo, non c'è tra Renzi, però sì. Questo accordo ci sarà probabilmente tra Renzi e Berlusconi. Mettiamo che loro facciano un nome, io non so, Veltroni, lo voti o no? No. Oh, ma ti pare? Che ne so? Per in Africa scrivere dei libri, no, dai. Vabbè, ho capito, però potrebbe essere uno del Rinascimento di Roma, che poi stanno pagando gli italiani a suon di miliardi il suo Rinascimento. Veltroni mai. Può scrivere dei la libri, Finocchiaro? Può fare del bene, ma la Finocchiaro no. Finocchiaro sarà piccola cosa, però in un momento di magra economica la foto dell'IKEA con quelli della scorta che le portavano il carrello a me è rimasta qua. Beh, ma uno di questi che papabili, uno di quelli papabili che si leggono in queste ore, uno che per la Lega può andare bene. Prima che diventasse presidente della Regione Piemonte ti avrei detto Chiampaio. Da quando è diventato presidente della Regione Piemonte sta facendo massacri, soprattutto sul fronte sanitario. Massacri. Tu chiudi un ospedale, ci hanno rotto le palle per anni perché volevamo chiudere. No, ma nemmeno Chiamparino non ce n'è uno. Non chiedermi di Ma Berlusconi non vuole. Vabbè, però di Amato manco te lo chiedo. Cioè, se fanno Amato, che fai? Una manifestazione al Quirinale il giorno dopo, che fai? Porti la gente sotto il Quirinale? No, io la gente sotto il Quirinale la porto per riprenderci il referendum per cancellare la Fornero. Se fanno Amato si fanno del male da soli. Probabilmente ci gode Berlusconi, però non so se Renzi è lì per far godere Berlusconi. Contento lui, contenti tutti. Senti, ma non ti scoccia un po' che Berlusconi alla fine c'ha questo canale preferenziale, parla con Renzi? Cioè, dovrebbe essere una cosa che si mette d'accordo con voi, che tanto siete i suoi alleati, come dire, naturali. Evidentemente è appassionato di incontri con Alfano e con Renzi, me ne farò una ragione e incontro altre persone. No, non è un crucio. Vediamo se Berlusconi tornerà Berlusconi la settimana prossima o se rimarrà quello che è in questo momento. Su Renzi non credo. Ma al Milan pensa in queste ore, secondo troppo te? Poco, ecco, troppo poco. Fargli un appello, gli chiederei di pensare tantissimo al Milan, non dico esclusivamente, ma tantissimo al Milan. Beh, no, tu una volta hai detto esclusivamente al Milan, avevi detto allora esclusivamente, dai, va là. Guardiamo avanti. L'Italia non calcistica ha bisogno di guardare avanti, come mi stanno guardando male. Che è successo? Le hostess qua sull'aereo. Le hostess sull'aereo. Da dove arrivi? Ma dove vai? Devo andare a Roma, sto facendo la figura dell'italiano medio. E a Roma ogni tanto mi tocca andare a Roma. Domani devo incontrare Renzi, chi gli mando il piccione viaggiatore? Passami la hostess un attimo. No, stanno facendo delle occhiatate, ma poi la hostess con Parenzo escludo che abbia voglia passami di parlare. Senti, però tu sai che io devo farti una domanda. Ma tu sei su un volo di linea. Fra 20 secondi devo spegnere. Tu lo sai che io devo fare una domanda. Smentisci o no? Te la faccio su. Smentisci o no? Si sta muovendo la quello che esce sui giornali tra te e Soardi, smentisci o no? Perché smentisci? Come smentisci? Devo spegnere, c'è la hostess. Ciao. Divertitevi. Vabbè, ragazzi, andiamo con Milano. Davide, vai. Buonasera a tutti, grazie per la possibilità. Dimmi. Volevo fare un inciso, visto che stavate parlando del presidente, cosa ne pensate di Piero Angela? Sì, ma devi parlare con la bocca più vicina al microfono, amico mio, e toglierti dal viva voce quello che è. Davide, vai. tolto via dalla bocca quello che non era necessario. Piero Angela come ma che Piero Angela, ragazzi, ma perché queste cazzate? Io non le posso sentire. Ma dai, ma che vuol dire? Ma Piero Angela fa benissimo, ha fatto quello che sa fare, cioè la televisione, la divulgazione, tutto. Che c'entra? Il Presidente della Repubblica deve essere uno. Ma purtroppo, siccome non c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, si sta parlando di un'elezione parlamentare, dobbiamo parlare di gente che fa politica in questo momento. Di gente che è data al mulino e non si è infarinata, abbiamo bisogno. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire un cazzo, dai, su. Comunque, indipendentemente da questo, la mia preoccupazione era un altro punto di discussione. Ti ho visto alla trasmissione giovedì sera, non ricordo il nome, dove si parlava ancora di questa storia di Corona, dai, e ho avuto piacere di vedere, mi permetto di esprimere il mio pensiero, non sono nessuno, mi permetto di modificare un po' il tuo atteggiamento, perché in radio non ti si vede, non si vede il tuo viso, non ti si vede come ma si muove. Ma che cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma cosa c'entrano i miei anelli? Cosa c'entrano i miei anelli? Cosa c'entrano? Poveraccio, sei un poveraccio. Il corpo come circo è fondamentale, quindi nella radio non ti si vede, vabbè, dai, in televisione sì. Forza, quindi ti faccio dire la tua roba, dai. Ti faccio dire le tue cose, dai, vai, continua, vai, forza. Ti ringrazio per... Sì, vai, sfogati un po', dai, forza, sfogati. Ma non volevo sfogare, volevo sfogati, dai. Suggerimento, visto che sei una persona che hai il suo follower, chiamiamolo follower, e quindi sarebbe interessante, sì. Visto che ti rapporti con un pubblico e visto che quasi negli ultimi 12-14 mesi anche il tuo modo di comunicare è cambiato, un po' diventato un po' più aggressivo rispetto a qualche anno fa. C'ho anche lo psicologo qua, vai. Chiaro. Allora? Forse sarebbe necessario che ti affiancassi una persona che ti ha in giudizio. E allora quindi volevo dire che il tuo modo di comportarti in quella trasmissione è stato un modo sicuramente errato. Modo errato. Di comunicare, un punto. Modo errato. Bene, grazie, ciao. Certo. Americo dalla provincia di Chieti. Giuseppe? Dimmi caro, dimmi. Ciao, buonasera. Sì. Ultimamente mi trovo molto spesso, Sì, Americo, però sentiamo poco, mi fai sentire meglio per favore, fammi sentire meglio, amico mio, dai. Sto lavorando, Giuseppe, sto lavorando. Ho capito, ma allora troviamo una soluzione. Ascoltami, mi senti adesso? Sì, vai. Stavo dicendo, per quanto riguarda il discorso di Corona, l'ultima volta che ha commesso un reato, che è stato quello di, penso, non rispettare le restrizioni, è stata la mia città. È stato invitato a un bar dove poi, quando sono arrivate le forze dell'ordine, ha pure avuto un atteggiamento superficiale, quasi da sbruffone. Quindi, sì, ma queste non sono cose da codice penale. La sbruffonaggine, no, la sbruffonaggine non è, altrimenti io dovrei andare in galera, insomma, per alcuni atteggiamenti che ho. Ascoltami, per cui che c'entra? Se io commetto un reato, se io faccio qualcosa, mi devo assumere la responsabilità di quello che ho fatto, che purtroppo in Italia non succede, e devo pagare le conseguenze. Quindi pensare e agire. Questo per quanto riguarda la Corona. La grande battaglia tra Carlo Taormina e David Parenzo. Carlo Taormina condannato a risarcire 10.000 euro a un'associazione sui diritti dei gay, di avvocati sui diritti dei gay, per avere detto che non assumerebbe un gay nel suo studio. Si scaglia contro la zanzara, colpa vostra. Una sentenza veramente inaccettabile. Poi la responsabilità principale di questa storia è proprio la vostra. Ma che responsabilità? Mi avete provocato e io sono caduto nella provocazione. La pena è ingiusta, perché fargli pagare 10.000 euro non ha alcun senso. Ma guardi, li pagate voi, perché io adesso li chiamo in giudizio come... Ma che chiami in giudizio? Non pago il collo perché non ho niente. Ci chiama in giudizio. Perché? Perché voi siete come un giornale che ha ospitato una dichiarazione e anzi l'avete provocata. Ma noi non ci abbiamo una lira, né case. È che io devo pagare io, allora. Lei che è ricco, mica noi. Beh, devo pagare io. Mi dispiace. Una cosa è essere ricchi, un'altra cosa è pagare le cose ingiuste. A un certo punto si scatena contro Parenzo, che dice sarebbe meglio che Taormina, invece di pagare 10.000 euro, difendesse gratis i gay, gratis l'arci gay. Dovevano mandarti ai servizi sociali. Aspetta. Voi che siete dei giornalisti, dovreste essere i più gelosi della libertà di manifestazione. Ma io sono dalla tua parte. Io sono dalla tua parte. Ma se questo imbecille di Palenzo mi viene a dire. No, che... no, un momento. Io solo per la libertà di parola, ma non per la libertà di offesa, che è una roba diversa. No, Cruciani pensa che offendere non costituisca reato. Io penso che offendere ti meriti un procedimento. Ma tu devi andare ai servizi sociali, ma tu devi andare. Ecco, io ti dico questo. Anziché farti pagare 10.000 euro, tu dovevi andare per due mesi all'Arci Gay a fare il gratuito patrocinio all'Arci Gay. Questo dovevi fare. Altro che. Manco morto. Ma io non e tu dovresti lavorare gratis per due mesi a un'associazione di omosessuali. Vedrai che ti cambia la testa anziché dargli 10.000 euro. E chi ti sta presto? Vedrai che ti cambia la testa. Anziché farti. Vedi che ti fa più male? Anziché pagare 10.000 euro ai servizi sociali per due mesi all'Arci Gay, a fare l'avvocato. A fare l'avvocato gratis per l'Arci Gay. Questo è. Questo è la legge del contrappasso. Questa è. Capito? A chi non voglio sentire. Dicendo che sono andati a servizio sociale. No, io ti ho detto un'altra cosa. Ti ho detto che la pena più corretta sarebbe. Ma non hai capito? La pena, ho detto che la pena vera sarebbe stata quella. Anziché farti pagare, fai due mesi gratis all'Arci Gay. Pena migliore non c'è. Ma non è gay, Irakondia. Ma non è gay, Parenzo. Ma non mi interessa. Ma è la tua Irakondia. Dimostra semplicemente che la pena migliore sarebbe stata due mesi gratis all'Arci Gay, due mesi gratis all'Arci Gay, due mesi gratis all'Arci Gay, due mesi. Vai a fare tu il giornalista. Io non sono stato condannato. Io non sono stato condannato. Vai a morire. Io ho sentito nell'ordine, ti giuro. Allora, ma vaffanculo. Vai a morire ammazzato, sì. Imbecille, stronzo, sì. E altro ancora. Quindi mi pare che i giudici ancora una volta purtroppo hanno sbagliato. Sì, però sì. Tu sei veramente una vergogna, però Non puoi dire che quello dovrebbe andare a fare, cioè, il servizio sociale all'Arci Gay. Mi insulta un avvocato. Mi insulta semplicemente e tu gli dai ragione. Ma certo, su questo gli do ragione. Perché io dico che anziché fargli pagare 10.000 euro, che per lui indubbiamente sono come ma non è vero, sono sempre 10.000, ma è il principio, no? Ma è il principio. Beh, non me ne frega niente, è stato condannato. I giudici avrebbero dovuto, ripeto, mandarlo per questo punto io direi almeno 4 mesi, non 2. 4 mesi ai servizi sociali, cioè prestare la sua sapienza all'Arci Gay con consulenze gratuite di avvocato. Vedi che gli fa più male, infatti, vedi come rosica. No, vedi come ma si è sbagliata la condanna. Se uno pensa che la condanna sia sbagliata, per me è sbagliatissima. La condanna, se a uno ha insultato. Ma che insultato? E soprattutto una persona si è sentita, un gruppo si sono sentiti offesi. Ma dai un giudizio tuo, è giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato? Se uno è giustissimo, se uno mi dà come. Ma lui ha detto che non assumerebbe un gay. Se uno mi dice che io sono uno stronzo ebreo, io quello lo querelo. Ma questo, ma sono due cose diverse. Ha detto che non assumerebbe un gay. Si chiama discriminazione. Tu sei malato. Anche offesa. Tu sei malato. Siccome a te piace. Vuoi ridurre tutto al tribunale. Quelli che vengono frustati. Ma tu pensi? Tu pensi ancora? Di ridurre. Insultami. La gente normale non è così. Cioè, la gente che viene insultata in genere reagisce. Sì, non è che dice frustami ancora. Forse che mi non piace, hai capito dai, ancora. Dai, lui ha semplicemente. A parte che, come sai bene, lui non ha insultato. Anche se avesse insultato, non è che ha insultato. Una persona, secondo le nostre norme, una persona, un tribunale nei confronti degli omosessuali. Comunque, è stato condannato solo a pagare 10.000 euro. Sbagliato. Pagare è più utile che lui vada a fare del bene e vada a fare una consulenza gratuita. Sbagliato. Allora, vabbè, fatti insultare liberamente. Nel weekend Taormina ha scritto: vedo che a molti uomini piace l'organo sessuale maschile riceverlo per via rettale. A me non piace, anzi fa schifo. Posso dirlo? Beh, siamo veramente al top, Ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, A un certo punto è intervenuto Paolo da Udine, il quale ha detto a Taormina che in realtà la cosa migliore sarebbe costringere Taormina a avere dei rapporti omo. Ma si rende conto che abbiamo una Costituzione la quale dice determinate cose e questi dicono altre cose. Vabbè. Oggi lo fanno per questo. Una cosa, aspetta, non sapere niente. Professore, un attimo, Paolo, dimmi. Ecco, Paolo, dimmi, che c'è? L'avvocato Taormina dovrebbero costringerlo ad avere un rapporto gay. Ammazzato. Lui sa dire solo quello. Ma lo fa solo quello, basta. Ma chi faccia costringere lei? Forse la costringerebbe. Ma lei che c'è questo problema? Io vabbè, Amerigo, provincia di Chieti, era con noi, vai, Amerigo, vai. Allora, Giuseppe, stavo dicendo che sono d'accordo con te quando dici che certe persone vanno prese, messe in uno spazio, una gabbia, e fatte macellare. Ma sì, ma si scannassero tra di loro questi qua fascisti, centri sociali, 99 posse, tutti insieme, dai, su. Poi posso dire una cosa, questi signori dei 99 posse che fanno dell'antifascismo una loro battaglia, ma uno può vivere di ricordi, va benissimo, può vivere di, come dire, di, no, di, del passato, l'antifascismo militare, tutte queste cose su pericoli sostanzialmente inesistenti, ognuno può fare quello che vuole, ma non lo decidono loro se Casa Pound, Forza Nuova sono fascisti o no. Ci sono le autorità, possono anche essere fascisti, non mi interessa, ma lo decidono le autorità in Italia. Se loro non si fidano delle autorità, beh, amici miei, questa è la democrazia, cioè funziona così. Non si possono fare giustizia da soli dicendo, siccome è una follia, è una follia. Ascoltami un attimo, io non sono né fascista né più di sinistra, quindi ti posso garantire che nella mia città c'è un gruppo di Casa Pound, ragazzi di Casa Pound, che fanno bene del sociale, non rompono i coglioni, ma questo va bene. Quindi non generalizziamo chi fa politica, chi fa sociale, e così anche da altre parti. Questi sono soltanto persone che vivono con utopie di cazzo, scusami. Cioè con va bene. Amerigo, l'ultima cosa. Quando Parenzo fa delle affermazioni che poi non è mai uguale all'altro, no? Ha detto che gli operai della Fiat prendono 1.000 euro, e non è vero, 1.000 euro lo prende, perché io sono operaio. Vabbè, dai, forza, Fiat, Amerigo, però lo lascia prende perdere. Chi non viene a lavorare, chi viene licenziato, e se vuoi se ti posso dare le prove, l'ultimo licenziamento nella mia fabbrica è una persona che la notte andava a ballare e il giorno stava in malattia, quindi ben vengano di queste cose. Va bene, grazie, benvengano. Maurizio, Bologna, Maurizio, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi Maurizio. Intanto guardi, le darei idealmente un bacio in fronte, perché finalmente ha detto una roba che nessuno ha mai il coraggio di dire, sul fatto che quando succedono questi scontri dovrebbero prendere queste persone, isolarle, lasciare che si ammazzino, tanto non servono a niente all'umanità, e poi dopo andare avanti. No, ma non si può, cioè, noi, allora, io vorrei... Si può dire anche un'altra follia simile? Mi scusi, una manifestazione è autorizzata o non è autorizzata? Cosa vuol dire riprendersi e si massacra tra di loro? Ma lei, ma dove è la giungla? No, ma guarda che non è un metodo sbagliato, eh. Ma che non è la sua parte del mondo? Ma che anni fa in Olanda, la polizia, sai cosa faceva? I tifosi ultra estremisti, succede anche in Inghilterra, Cruciani, arrivando a quello, si scambiavano proprio i messaggi, ci vediamo in quel posto. La polizia semplicemente creava intorno a quel posto una specie di vuoto. Questi qua si scontravano tra di loro senza la popolazione, senza nessuno, si ammazzavano e chi se ne frega, cioè, ma qual è il punto? Se gruppi di persone si vogliono massacrare, la cosa importante è che non vengano incendiate le macchine, che non vengano rotte le vetrine, solo che a questi non interessa, ovviamente, no? Perché a questi interessa solamente lasciare le vetrine e mettere a ferro e fuoco la città, così se ne parla. Se invece si scontrano nei campi, siccome loro sono antifascisti, benissimo, si affrontassero nessuno, in campagna con i cosiddetti fascisti, presunti fascisti, si massacrassero tra di loro, basta che non ci rompano i coglioni a noi con queste minchiate. Io però quello che vorrei chiedere a lei e a Parenzo, che avete sicuramente una cassa di risonanza diversa dalla mia, perché non si fa? Cioè non mi date le risposte. Ma non si fa perché è una cosa che dico io provocatoria, ma è evidente che non si può fare concretamente. Ma perché? È molto difficile farlo. Appunto. Concretamente è difficile. Io spero che sia così. Basta, è una stupida provocazione. No, che ma perché le faccio la provocazione è sulla base del fatto che la cosa ideale sarebbe che questi qua si scannassero tra di loro. Ma mica l'ha capito questo, Sì, l'ha capito benissimo. No, l'ha capito è molto più intelligente di quello che tu pensi. No, questa mica questo somaro, mica l'ha capito, dice no, ma perché non lo fanno? Dovrebbero farlo. No, ma Parenzo, guarda. E sei costretto a spiegargli che siccome hai detto una provocazione, cioè una puttanata, no, non si può fare. Le puttanate, no, le dici tu, Parenzo, io non le dico. Parenzo, siccome è una provocazione idiota, l'hai detto anche tu che è una provocazione. No, ho detto che è una provocazione perché è evidente che non si può fare. L'ideale è quello che. Ma quindi non si può fare. Sì, ma come non si può fare? Si potrebbe fare. Parenzo, le giro un'altra domanda. Lei, da giornalista, sentirà parlare continuamente della violenza negli stadi. Io avevo otto anni si parlava di violenza negli stadi. Le volte si interdicono gli stadi ai violenti, si chiama DASPO il sistema. E lei sa meglio di me che la DASPO è una grandissima buffonata. Io non sono un ultra, non vado allo stadio. Un quindi, po' funziona, però, poco, ma un po' funziona. Bene. Allora, lei mi dica qual è la controindicazione, no? In una partita di calcio, bene? Allora, ci sono due fazioni che si vogliono menare, bene? Ora, lei mi dice per quale motivo io devo avere, se vado allo stadio con mio figlio, il pericolo di essere pestato, ma il certo, pericolo di essere raggiunto infatti, da dei petardi. Invece ma infatti hanno fatto delle norme più dure proprio per contrastare no, questa ma non cosa. Non funzionano, quindi, perché continuano a fare casino negli stadi. Ho capito. No, perché spesso il problema è che non hanno nessun interesse ad ammazzarsi tra di loro, quelli allo stadio. Anzi, vogliono, se la vogliono prendere con la polizia o con la gente normale, perché è più facile. Esatto, ho capito. Invece io, se e spesso nella, perché sono d'accordo tra di loro. Guardate, le persone normali escano dallo stadio. Chi vuole ammazzarsi, apriamo i cancelli. Ma infatti questo, sarebbe, questo per me sarebbe l'ideale, ma avete, purtroppo è irrealizzabile perché è uno stato di diritto, è evidente dopo due volte è finita la violenza negli stadi, ma secondo me. Ma certo, ma infatti questo sarebbe l'ideale. Ma perché non si fa? È perché nel caso di Cremona no, non si fa perché purtroppo... Il caso di Cremona è diverso, il caso di Cremona è diverso. Lei, questa è una provocazione. È diverso, quello che ho scritto andava, io oggi, quello che ho scritto andava. Io è un'altra cosa. Io ho scritto un'altra cosa, perché se qualcuno vuole fare casino non si incontra e si vogliono scannare tra di loro, non questa volta perché... Beh, alle volte lo fanno anche perché si fanno degli agguati. Si scontrassero tra di loro invece di rompere... Ma alle volte succede anche. In una... Tu mi devi spiegare cosa c'entrano le banche, cioè le vetrine delle banche o le macchine che sono state distrutte dubbio a Cremona o la sede dei vigili urbani di Cremona con una manifestazione contro i fascisti che avrebbero massacrato di Casa Pound, che avrebbero massacrato uno dei centri. Ora, siccome non c'entra nulla, è evidente che io ti dico, se qualcuno si vuole massacrare, se si vogliono scontrare per dire noi siamo più forti di voi, i fascisti non devono esistere, voi siete dei porci comunisti, si scannassero ma lontano dalle città, così a noi non ci rompono le scatole, no? È una cosa assolutamente insopportabile, guarda. È il contro natura, è il contro natura. E intanto è ritornata la super cazzola di Vendola. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Beh, eravamo in attesa, troppo tempo era passato. È tornata la super cazzola di Vendola. Il femminismo per me non è un sapere specialistico, è l'irruzione di un paradigma che sconvolge tutti i saperi, perché opera una destrutturazione del presupposto malato dalla neutralità dello sguardo sul mondo, no? Il mondo può essere guardato con occhi di uomini e con occhi di donne. Hai capito, Parenzo? Beh, ho capito che con un po' di poesia lui ci sta semplicemente dicendo che grazie che ci sta dicendo? Anche alla sensibilità femminile, sì, il femminismo. Il femminismo opera la destrutturazione del presupposto, sì, malato. Sì, le donne hanno quella capacità di vedere il mondo con, come dire, angolazioni diverse da quella dello spirito maschile, che è un po' più basico, diciamo la verità, il nostro è un po' più Telese. Perché mi stai chiamando, caro Telese, adesso? Signor perché... Telese, signor Telese. Scusami Luca, sono in albergo a Cracovia, in diretta alla Zanzara, con quell'altro... Pietro da Bologna, telefono. Pietro da Bologna. Vai Pietro, buonasera. Vai. Buonasera Cruciani, io non so se l'offendo, ma racconto un sacco di idiozie. Comunque, sì, chi? Detto scusa. Questo, io racconto un sacco di idiozie, può darsi. Sì, un sacco di idiozie. Maybe. Rimane che la questione di Cremona. Sì. Io sono comunista. Sì. E bene. La questione di Cremona, di questi che hanno rotto le vetrine delle banche, sì. Direi che sono degli infantili, sì. Sono degli stupidi, sì. Però rimane che le sedi di covi dei fascisti di Causa Pan dovrebbero essere tutti chiusi. Vabbè, questo non lo decide perché lei, però c'è Pietro. C'è un'apologia ancora nella Costituzione. Ma del lei fascismo. No, ma questo non lo decide lei, Pietro. Non allora, lo decide c'è lei, non lo decide. No, ma c'è un'Europa che ha sdoganato il fascismo, sì. E il nazismo. Vediamo come un gruppo neonazista in Ucraina, sì. Di Svoboda, appoggia quella merda di Poroshenko, appoggiato dall'Europa. Sì, Pietro, adesso non viriamo sull'Ucraina. Non viriamo sull'Ucraina. Caro Pietro, allora, il problema è c'è che c'è una questione europea dell'ultradestra e c'è senz'altro una questione politica. Le banche non si rompono le vetrine, Pietro. Si espropriano le banche. Va bene, si espropriano le banche. Perché le banche, la BCE, il Fondo Monetario, sono un gruppo mafioso terroristico. Bene. Che deve essere espropriato. Bene, del popolo. Scusi, perché non è andato, anche lei? Renzi, perché non è andato anche lei? Pietro, perché non è. Ma perché non è andato anche lei allora? Come? Perché non è andato anche lei a fare quella manifestazione? Perché allora? Io non ci poteva andare. Ah, beh, certo. Ma ci sono stati amici miei che ci sono andati. Ah, bellissimo, stupendo. Senz'altro non sono andati a rompere le vetrine, perché non è quello lo scopo. No, beh, sarebbe giusto invece espropriarle direttamente, assolutamente. No? Prendere d'assalto però, e espropriarle, certo. Però rimane una cosa. Allora perché non si vietano le partite la domenica? Non ho capito. Perché Pane Circensi al potere fa comodo che la gente si distragga. E poi si tagliano. Lei è al totale delirio. Sociali, lei è al totale delirio. Come lei fa questo parassita di Renzi? Lei è al totale delirio. No, è lei che sta. E lei, Cruciani, che dice delle grandi stronzate. È uguale a Barnard. Okay? Questo, sembra Barnard, forse è lui. Di padroni, perché l'1% che possiede la metà della ricchezza mondiale. Ma che c'entra? Quelli questo? Sì, sono i terroristi. E quelli veramente dovrebbero essere condannati, processati e appesi a piedi in giù. Vabbè, poi ancora fucilati no. Cioè, il massacro che c'è stato in Grecia, il massacro che c'è in Ucraina. Ma questo è un imitatore di Barnard, a delle lobby internazionali di grande capitale, di multinazionali. Ma questo banche, che c'entra con quello che privatizzare ma che c'entra con quello che è successo a Bologna? Fare i profitti a Cremona. Il debito che ha creato. Vabbè, arrivederci il capitale, Pietro. Non i lavoratori. Arrivederci, grazie, arrivederci. Sindaco di Castel Volturno, buonasera. Buonasera, buonasera. Sindaco, allora, ma che le è venuto in mente di far vestire quelle due signore da prostitute? Signorine. Vabbè, signore, signorine, quello che è, non cambia nulla. Vabbè, non hanno fidanzati, non hanno mariti, quindi la cosa era molto più semplice. Vabbè, ma anche se avessero avuto mariti o fidanzati non sarebbe cambiato nulla. Certo. No, cioè, no, perché lei non avrebbe... Forse, no, non è che era più difficile che accettassero qualcosa del genere, insomma. Secondo cioè, lei dice che non, anche lei non gliel'avrebbe proposto? No, io la proposta penso che non avrebbero mai accettato. Ma scusi un attimo, l'obiettivo suo qual era? Adesso al di là del fatto che della butata se ne è parlato in tutta Italia, i video, le cose. Dunque, giustamente lei fa politica, si batte contro la prostituzione nel suo comune e ci sta pure che faccia un'iniziativa di questo tipo. Ma lei veramente vorrebbe multare, anzi l'ha fatto in realtà, multare i clienti delle prostitute? Ma guardi che lo fanno in tutti i comuni, ci sono delle ordinanze. No, in molti comuni, non in tutti i comuni, in molti comuni. In molti, dove c'è questo fenomeno così massiccio? A Castel Volturno. Ma che serve? come, a che serve? Serve come deterrente, assolutamente. Guardi, oggi se lei passa sulla Domiziana, oggi, ma non so quanto durerà, può durare pure solo pochi giorni, comunque oggi le prostitute non c'erano. È semplicemente il fatto che... Ho capito, che ma non ci saranno oggi, ci saranno tra 5 giorni, ci saranno da 10 giorni. E ci inventeremo qualche altra cosa, non cioè, ci lei, lei, qualche altra cosa. Lei dice che multare le prostitute... Multarle. Ma non multiamo le prostitute, no. Cioè, le prostitute, i clienti, essere. Scusi, i clienti. I clienti, certo. Multare certo, i clienti è una cosa positiva. No, negano, è un deterrente, assolutamente sì. I clienti è un modo, è un modo di, per fare ostruzione a un fenomeno che io non voglio sul mio territorio. No, ho capito, ma si sposta 200 metri più avanti, sindaco. Ma cosa siete diventati tutti moralisti, siete impazziti, ma andare a prostitute è una cosa normale. E chi lo dice, chi dice che non è normale? Mica sto condannando io vado a fare prostitute. Il fatto che io faccio la multa non significa che sto condannando... Beh, in qualche modo sì. In qualche modo sì. Sì, però lei non si mette solo dal lato del fenomeno, che secondo me è un fenomeno sociale, come dire, anzi io dico che sono degli ammortizzatori sociali che tengono in equilibrio tante famiglie. Cioè, in che senso? In che senso? No, nel senso che capisco che molti uomini hanno bisogno, io no, ma molti uomini hanno bisogno di andare con le prostitute. Perché dice lei? Perché hanno bisogno? Hanno bisogno, non lo so quali sono le esigenze, ma conosco persone che hanno bisogno che dopo con i sensi di colpa tornano a casa e vogliono più bene alle mogli, con i sensi di colpa, ma lasciando stare questo, io le sto dicendo. No, ma questo è importante saperlo, secondo lei invece... E io non faccio il sociologo. Cioè, salvano i matrimoni, molte prostitute salvano i matrimoni, secondo lei? Secondo me, se un ammortizzatore sociale tengono molti, come dire, molti matrimoni, ma è un'opinione mia personale. Beh, certo che lei sta parlando... Non del sindaco. Ho capito. Come sindaco, io devo... Da un lato posso capire come dire, queste esigenze, posso capire il fenomeno, però devo dare pure le risposte ai cittadini e anche agli esercizi commerciali che si trovano le prostitute davanti all'esercizio commerciale, che impediscono quindi ai clienti, impediscono all'albergo di avere, come dire, una clientela, sì, come ma dire. Lei non può impiegare, lei sa benissimo che questa cosa può durare qualche giorno, altrimenti tutti i suoi vigili sarebbero impiegati a fare questa roba qui e sarebbe ovviamente impossibile. Se lo facessero anche altri comuni andrebbe meglio. Ma voi volete una operazione di polizia contro i clienti, allora, una follia? No, ma guardi, io le faccio un esempio. Allora, noi Castelvolturno, cioè rinomata per la presenza. Sì. E come mai? Come mai è così pieno di prostitute? È prostitute perché, ripeto, ci sono state anche, come dire, uno spostamento, un'immigrazione dei comuni limitrofi, dove per esempio il comune di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, che è limitrofi con il mio comune, hanno fatto lì le associazioni, i preti, hanno fatto una campagna, come dire, forte con l'intervento della polizia e le prostitute sono state costrette a spostarsi sul mio territorio, che oggi andranno dal mio territorio e si sposteranno al comune limitrofi. Io ho il dovere di farlo, non risolvo il problema perché poi lo vado a spostare nel comune limitrofo. Però intanto io come precedente ho il dovere di fare delle azioni di contrasto a questo fenomeno. È l'unico strumento che ho. È questo. Ma è scusi, ma lei ha dire, perché ha mandato quelle due, la consigliera, l'assessore, non so chi erano? Perché le ha mandate? E poteva limitarsi a mandare i vigili a fare le multe, semplicemente questo, no? Accanto alle prostitute vere, perché che bisogno c'era di fare la cosa con quella? È un'operazione mediatica. È un'operazione mediatica che aveva un preciso obiettivo, quello di far conoscere ai comuni limitrofi, perché a Castelvolturno c'è il rischio di prendere l'ordinanza, di le 150 euro di multa. Ma lei l'ordinanza, la multa, si poteva fare lo stesso a prescindere dal fatto che scendessero in campo le due politiche? Perdone, però, no, e mo le spiego un attimo, infatti faccio un esempio. Allora, io emetto l'ordinanza, come abbiamo emesso, sì. Ok? Emetto l'ordinanza. Il cliente della prostituta non è residente a Castelvolturno, perché io, lei può immaginare che se vivo nel mio paese non vado a prostituto rischiando di essere vista da parente, da familiare, che ci nel paese accanto. Esattamente, quelli del paese accanto vengono nel mio comune, io mica posso mettere, non me lo consente il codice della strada, una tabellonistica che dice benvenuto a Castelvolturno, vi ricordo che in questo comune prendete la multa di 150 euro. Quindi io mi sono fatto questa domanda, come devo fare per far sì che il fatto che a Castelvolturno c'è il rischio di beccare la multa, quindi ci devi pensare due volte prima di come fare? Mi sono inventata questa cosa, è stata una cosa negativa, positiva. Oggi, con i risultati che ho visto oggi, pochi minuti fa, sulla Tiziana, che non c'era prostituta, ad oggi è un effetto positivo. Ma arriverà un giorno, due giorni, tre giorni, poi vedremo che altro fare. Ma quanto ha incassato da sta storia? Io l'ordinanza l'ho emessa alla fine di settembre, abbiamo iniziato a fare multe a novembre, insomma siamo intorno alle 83-84 multe, moltiplichi per 150, quindi questo è incassato. Cioè 80-150, che so, quei 10.000 euro che ha fatto? No, no. Esattamente, sì, sì, intorno ai 10.000 euro. 10.000 euro, vabbè, ma poca roba, perché, che ce fa con 10.000 euro? Sì. Ma mica perché, ma non è, ripeto, ma mica perché voglio fare cassa attraverso il fenomeno. Beh, e vi dico, è solo uno strumento. Ma questi se la facevano, non se la sono fatta sotto, perché hanno fatto tutti quanti, hanno conciliato tutti immediatamente, non è che si sono fatti... qualcuno ha presentato le memorie difensive, ovviamente, difendendosi che erano fermi al telefono, che la prostituta è lei che si è avvicinata all'auto, insomma, però io accetto le memorie difensive, poi faccio il contraddittorio. Scusi, sindaco, però lei non preferirebbe fare un bel quartiere a luci rosse, o no? Ma nel mio programma c'è e c'è intenzione di farlo, assolutamente, noi abbiamo un parco dell'amore che stiamo cercando di realizzare. È meglio il parco dell'amore? Ma assolutamente, capito, Parenzo, ascolta. Prego, è no. meglio aprire Scusa, a me. Chiariamoci, sindaco mio, chiariamoci anche con te. Io non sono mai stato contrario alla prostituzione, non ho mai detto no alla prostituzione. Io ho sempre detto, fino alla noia purtroppo, no allo sfruttamento della prostituzione. Ma che c'è, ma quello siamo siccome tutti nel d'accordo. 90... Dio mio. Vabbè. Siccome nel 90.9% dei casi... Allora, fermi che c'è la borsa, così rimettiamo bene i collegamenti, che oggi sennò divento una belva. Parlaci di fighe e basta, è questo che voglio sentire, Giuseppe. Sei un depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Con noi da Castel Volturno Dimitri Russo, il sindaco che ha mandato due sue colleghe, che erano uno consigliere e l'altro assessore, che erano? No, due, entrambe consiglieri. Due consiglieri comunali, sindaco di area PD, credo di poter dire, caro. No, no, è una lista civica. No, lista civica, però vicina, più vicina. Sì, a supporto di una coalizione di sinistra. Di sinistra, sì, di centrosinistra, che ha mandato due consigliere comunale di Castel Volturno. Vestite da prostitute ad adescare i clienti. Una carnevalata simpatica, carnevalata. Tutto beh, ovviamente erano consenzienti, queste due. Ma una carnevalata, com'è? Va benissimo. Se serve. Ma com'erano? Meglio delle prostitute erano questi due consiglieri, Russo? No, guarda, non lo deve dire a me. Sono belle ragazze. I clienti si sono fermati proprio. Una quindicina in un'oretta, di cui quattro sono stati multati. Vabbè, molti quando io uscivo, io ero lì vicino. Diciamo nascosto dietro un cancello, uscivo con un depliant. Molti sono scappati, ho visto. Sì, io li lustravo perché comunque era una provocazione anche per sensibilizzare non solo il fenomeno, diciamo, della prostituzione, ma anche per sensibilizzare la raccolta differenziata. Perché per cui lei diceva, ripete un po' questa cosa: due piccioni con una fame, cioè nel senso che siccome anche. C'è anche il, come dire, il problema della sporcizia, no? Della sporcizia, quindi mi sono preoccupato di, siccome ripete un fenomeno diffuso sul territorio, di informare agli utilizzatori. Cioè, che cosa diceva ai clienti delle prostitute? Spiegavo dove si andava depositato il profilattico, dove il fazzolettino sporco, il fazzolettino, il contenitore dei. Vabbè, dei, ma le pare possibile che lei con tutto il casino che c'è in quei posti, eccetera, uno vada a pensare dopo aver usato il profilattico a metterlo. Ripeto che era una provocazione. Però una lei dice c'è anche il problema dell'inquinamento di quei posti. Assolutamente, ma già parlarne di differenziati, il fatto che oggi si sta parlando che Castel Volturno di sindaco fa, significa che oggi il cittadino sa che comunque c'è stata una sensibilità da parte dell'amministrazione su questi temi, che ad oggi non c'è mai stato. Insomma, ma come, che faccia facevano questi qua quando lei diceva il tovagliolo? Erano increduli, veramente, non pensate. Il preservativo, il profilattico lo mette da una parte, il coso lo mette dall'altra. Ma cosa è servita sta carnevalata pre no, dice il sindaco, a un po' a ripulire in questi giorni le strade di Castel Volturno. È servito a fare un po' di pubblicità a questo simpatico personaggio che abbiamo conosciuto. Guardi, non ne ho bisogno di pubblicità. Un po' bisogno ne abbiamo tutti, ma va bene, non la sto criminalizzando perché ha messo però mi perdoni, ma mi dica, ma mi dica allora, voi avete chiesto, no, qual è stata la finalità? Io ho detto l'obiettivo era questo, e vabbè, potete non credere. No, ci crediamo e come, però è una simpatica carnevalata che, aperta parentesi, non serve un cazzo, punto esclamativo. Dopodiché, se lei mi dice, sindaco mio, che il suo obiettivo è quello di di combattere lo sfruttamento della prostituzione, io non solo mi inginocchio, ma le stringo anche la mano quando la vedo. Ma questo è fissato con lo sfruttamento. Ma il sindaco che c'entra con lo sfruttamento? Il sindaco russo non è che può fare, non è che può combattere lo sfruttamento con gli strumenti. Ma quella è la polizia, no? Dai, su, le leggi e la polizia. Ma avendo lui degli strumenti a disposizione, vedansi le multe ai clienti, applicando questo può disincentivare il fatto che sul suo territorio alcune ragazze sfruttate marciscano per strada. Io lo può dire gentilmente, caro sindaco, siccome purtroppo il personaggio è quello che è, può spiegare a Parenzo che il problema non è, che tutte quelle che battono lì sono tutte sfruttate. Io lo può spiegare a Parenzo? No, guardi. Io allora il fenomeno dello sfruttamento ovviamente è quello più odioso, è quello umanamente quello più sensibile, secondo me la penso così. Ovviamente ha ragione, non sono tutte sfruttate, ovviamente molte di queste ragazze, soprattutto quelle dell'est, non sono assolutamente sfruttate. Quelle la nigeriane, sta ancora chi deve riscattare, come dimostrano, certo, insomma, alcune devono ancora riscattare il prezzo della venuta qui in Italia, del biglietto della trasferta in Italia. Su questo ci siamo. Il discorso è questo. Io dal punto di vista, faccio un esempio, il sindaco di Villa di Casal di Principe, Renato Natale, che è una persona che io stimo tantissimo, anche lui ha criticato questa azione, perché lui fa volontariato sul territorio di Castelvolturno proprio a favore delle ragazze immigrate, fa assistenza medica, e quindi dice non è quello lo strumento per risolvere il problema dello sfruttamento. Perfetto, ma io non sto in quel lato, non compete a me. Lei ha ragione quando dice un problema io sto da quest'altro lato. Io ho dato, deve liberare Castel di Principe, Castelvolturno, dal cittadino, dal commerciante che quotidianamente prostitute, chi è, malato oppure una persona normale? Ma non lo giudico, guarda. No, per lei, giudico, secondo lei. Allora, faccio un esempio. Ma lei c'è mai andato, no? Allora, io non sono mai andato a prostitute, se dovessi andare non vado su strada quando ne avrò il bisogno, anche perché sono single, quindi non devo rispettare nessuno, non c'ho né moglie né figlie. Se ho il bisogno, chiama il numero di telefono. Bravo, vado su qualche sito, ma vado a casa, non vado per strada, non è che rimorchi una persona per strada. Assolutamente, e è quello che io condanno, ma ripeto, lo condanno per una questione di decoro urbano. Io non sono, guarda, io lo dico col cuore in mano, io sono cresciuto con la musica di Fabrizio De André, c'è un tatuaggio di Fabrizio De André sul braccio, che sappiamo che cosa rappresentava. No, Genova, le prostitute. A me Randirso mi ha insegnato dei valori per non giudicare le persone, di tutela delle persone più deboli. Figurate se me la prendo con le prostitute o se me la prendo con i clienti pure delle prostitute. Beh, tanto li multa però. Ma io devo dare una risposta comunque ai cittadini, io devo, come dire, come ha detto lei, ma lei sposta il problema da oggi, lo sposta a domani o lo sposti in un altro territorio? Magari lo sposti in un altro territorio, intanto risolvi il problema sul mio territorio, poi sarà l'altro sindaco che se la piange sul mio territorio. Io già ce n'ho tanti, io sul mio territorio ho 15.000 immigrati, di cui 10.000 irregolari, un unicum nazionale, basta già quello per stare con le scolle in fronte. Quindi sinceramente aggiungere altri fenomeni di degrado urbano, perché quello se lei viene a Castelvolturno, il colpo d'occhio che è lasciando stare, proprio è pieno di mignotte. Va bene, grazie sindaco, a presto, ciao. Arrivederci. Ciao. William Benevento, vai. Sì, salve, buonasera. No, io semplicemente sono incazzato nero quando sento capre e caprette che parlano di politica, che scrivono sui presidenti della Repubblica, questo o quell'altro, no? Cioè, questo è il problema, che secondo me in Italia che c'è un eccesso di democrazia. E ma che vuol dire? Scusi, mi spieghi, non ho capito bene. Eccesso di democrazia, che forse era meglio quando la politica era noiosa negli anni 50 e 60 e se ne occupavano soltanto le persone che seguivano la politica, avevano. Ma non è vero neanche questo. Perché? Se devo sentire la parete, perché c'erano i partiti di massa e c'era la gente che si occupava di politica. Non è vero che non era, che se ne occupavano soltanto i pochi, c'erano i partiti, le sezioni, anzi c'era forse molta più gente. Vabbè, che allora non ho capito, William, non ho capito bene. Allora? Ma posso mai sentire io il nome di una Gabanelli che va lì a fare la Presidente della Repubblica senza sapere che cos'è una tecnica legislativa? Ma infatti è ridicolo, quello è ridicolo. Questo qui è il problema oggi, anche quelli là, tutti questi concetti del Movimento 5 Stelle, no, che stanno lì a fare i complottisti, lo slogan, i social network. Quindi la politica ha perso quel ruolo, perché io mi sento un po', secondo me ci sta troppo un eccesso di democrazia che porta anche i dementi a poter parlare di cose di cui non ne capiscono una mazza. Va bene, grazie William. Davide Varese, Davide. Dimmi. Grazie Cruciani. No, volevo dire solo Razzi for President. Sempre Razzi for President. Sempre. Sì. È un grande Razzi. E da resto niente. Beh, sì, da qui a vederlo Presidente della Repubblica. Adesso, diciamo, Presidente della Repubblica mi sembra un po' esagerato. Mi sembra un po' eccessivo, però per carità. È un personaggio simpatico. Vabbè, ho capito, però. Non è che basta, allora uno mette Moira Orfei, che è simpatica. Tu stai zitto, che non puoi parlare su Razzi, sennò arriva la falange. Arriva la falange. Certamente. Non ho capito, Davide, lei metterebbe veramente Razzi Presidente della Repubblica? Io sì, voglio dire, visto la classe politica che abbiamo, voglio dire, Razzi se non altro simpatico. Vabbè, ho capito, però mi pare una cosa molto molto molto difficile, quasi impossibile. Molto difficile, certo, è utopistica la cosa. Ma chissà che però qualcuno al primo turno non voti Razzi, Ma io ci spero. Al primo turno qualche voto lo prenderà. Qualche voto secondo me lo prende. Va bene, Angelo, provincia di Teramo. Angelo? Pronto? Dimmi. Sì, niente. Allora, io volevo intervenire, innanzitutto le dico, io sono appartenente alle forze dell'ordine, uno stipendiato di 1.295 euro. Praticamente volevo intervenire sul fatto di Cremona, poi successivamente ho sentito l'intervento di quel signor Pietro da Bologna che mi ha scandalizzato, successivamente ancora il sindaco di Castelvolturno, dove io penso che i cittadini chiedano tutt'altro che togliere la prostituzione. Il discorso è un altro, in Italia... Cioè, magari pure quello, ci sono dei comuni particolarmente infestati da questo punto di vista, dove ci sono le mignotte sotto casa e la gente giustamente non le vuole, infatti neanch'io le vorrei, le prostitute sotto casa, vorrei le case chiuse, i quartieri dell'amore o quant'altro. Sì, però, dottor Cusciani, io la chiamo perché praticamente tempo fa si è arrestato 4 handicappati per terrorismo nero, perché parlavano per telefono di mettere bombe non bombe a dicembre, allora? A dicembre, che io poi francamente allora? Ho conosciuto per lavoro, e si denuncia per sabotaggio i Notav che con i Mefisto e le Molotov incendiano e distruggono cose, cioè, quindi attenzione un attimino, viviamo in no, un non ho capito dove... nulla, però scusi Angelo, però mi faccia capire bene quello che vuole dire. No, allora, se 4 che fanno il saluto fascista vengono arrestati per terrorismo e invece... arrestati per terrorismo anche sulla base di intercettazioni, di altre prove, eccetera, eccetera. Poi ovviamente non ci sarà niente di... 92 anni, ragazzi, 92. Sì, ma lo so meglio di lei, allora? Ma non si può denunciare chi lancia le molotov o chi fa attentati incendiari alla stazione di Bologna per sabotaggio? Si deve, non si può. No, ma a sinistra c'è il sabotatore e a destra c'è il terrorista, come funziona? Ma no, ma Angelo, però scusi un attimo, chi fa delle azioni violente, come lei dice, di sabotaggio alla stazione di Bologna, purtroppo non viene identificato, altrimenti sarebbe già stato preso e sbattuto in carcere. Questo mi pare scontato, caro Angelo, cioè, a meno che lei non ci dice da appartenente alle forze dell'ordine che questi qua vengono coperti. I notav sono stati identificati, sono stati denunciati per sabotaggio. E vabbè, verranno processati secondo le regole che abbiamo. Attenzione, noi viviamo in un paese dove si parla di Cremona, di scontri sociali, ma là c'è un poliziotto che si fanno sputare addosso per 18 euro. Attenzione anche un attimino a come ci si svolge in Italia. Ecco, magari c'è, come diceva l'altro lì, che c'è un eccesso di democrazia, forse. Non lo so, però secondo me c'è un potere che tira un po' a sinistra in Italia, cioè su tutto. Tira a sinistra. Va bene, grazie Angelo. Calogero, Trieste. Calogero? Sì. Dai, pronto? dimmi. Dico che per le dichiarazioni che ha fatto l'avvocato Taormina meriterebbe una giusta pena, anche se simbolica. Se l'Arcigay volesse occupare di questo, no, se n'è già occupata un'altra associazione. Secondo me la pena è una follia, perché Taormina ha detto delle cose anche pesanti. No, è una pena anche simbolica, che gli preme molto la Taormina ha semplicemente quella di sospenderlo dall'ordine per almeno 3 giorni, per 2 motivi. Uno, perché... Ma quale sospensione dall'ordine, ragazzi? Ma siete impazziti? No, siete... No, 3 giorni gli farebbe bene. Siccome poi la pena deve essere riabilitativa, si potrebbe mettere a Taormina 3 giorni chiuso insieme a un costituzionalista come Zagrebeschi e fargli ripassare un pochettino la Costituzione, che dovrebbe essere uno dei presidi fondamentali. Sì, nella Costituzione c'è anche il diritto di esprimere liberamente le proprie idee, ovviamente. Certo, certo, ovviamente, ma lo fa lui come avvocato. Lui lo fa come avvocato. Allora, Taormina è stato condannato non perché ha insultato qualcuno. Taormina è stato condannato per discriminazione, che è un'altra cosa. La discriminazione, a mio parere, poi ovviamente i giudici hanno deciso in maniera diversa, la discriminazione non può essere solamente in un intento. Cioè lui dice, se qualcuno si presenta davanti a me nel mio studio e dice sono omosessuale, io non lo assumo. Parte che ovviamente era con noi al telefono ed era una cosa seria, al contrario di quello che dice lui, ma assolutamente ipotetica, cioè non si è mai realizzata, non è mai successo. Per cui di cosa stiamo parlando? Uno può, viene condannato anche semplicemente per aver espresso un'idea, un'intenzione? Ma io ho molti dubbi. Io dico che comunque per questa sua intenzione, io direi che è molto probabilmente, ma è simbolica, da 3 giorni metterlo con un costituzionalista, parteciperei pure io a quella. Scusa, allora se io dico, se qualcuno viene davanti a me gli do un pugno, cioè se Tizio Caio Semproni viene davanti a me gli do un pugno, certo, allora io vengo condannato per violenza, accusato di minaccia anche, ma, certo. Ma ho capito ragazzi, ma di che parliamo? Ma possiamo ridurre tutto ai tribunali? Possiamo ridurre tutto ai tribunali? No, è una cosa ridicola. Ti informo che può succedere, ma non può succedere. Ti informo che se uno dice vado da Cruciale gli spacco la faccia, ti assicuro che uno viene indagato per questo. Bah, cioè, ho dei dubbi su questo. Allora dovrebbero essere indagati anche i 99 post per quello che hanno scritto, secondo te? Allora, infatti esiste un reato che si chiama incitamento all'odio, che ma sì, ma se io dico qua, se Parenzo viene di fronte ma a me, quante do... volte sono stato minacciato da qualche idiota che per fortuna non ho mai, né ho mai fatto denuncia io, perché considero questi dei sottosviluppati mentali e non mi interessa intasare i tribunali. Dopodiché se uno mi offende, come qualche ascoltatore ha fatto in ma lui non ha offeso pesante, nessuno lo denuncio, ma non ha offeso nessuno, ma è così, però ma l'ha offeso nessuno, dici tu, qualcuno si è sentito offeso. Maria da Roma, vabbè, ma non è tutto, ma non è tutto così scontato. Cioè, ma non è tutto che tutti ragionano. Maria da Roma, fortuna. Maria da Roma, dai, Maria da Roma. Se no, che mondo sarebbe? Mamma mia, Maria da Roma, dai. Sì, buonasera. Allora, io volevo parlare delle prostitute. Sì. Alle prostitute bisognerebbe dargli una bella pensione. Perché? Perché fanno un servizio sociale talmente importante che loro forse neanche se ne accorgono. Che servizio sociale fanno? Io lo dico perché. Perché vanno, mi scusi, con i sdentati, con l'alito puzzolente, con quelle che non si lavano i piedi, con quelle che non si fanno i bidet, con tutto quello, deforma. E tutto il resto. Cioè, lei dice che vanno con i deformi, con chi non si lava i piedi. Certo, vanno con tutti, no? Cioè, vanno con tutti. E dunque lei dice hanno una funzione sociale. Questa è molto buona, Maria. Io ne riparlerei anche domani. Ci sentiamo domani alle 18:30. Allora io mi sento di fare un appello a nome degli ascoltatori etero della Zanzara. Cruciani, noi vogliamo più figa. Il bello per noi ascoltatori della Zanzara sarebbe, non dico averlo duro al casello D, ma averlo costantemente barzotto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Divertitevi. Radio 24, la passione si sente.